sommario. Morte di grassi, il tuo gioco è sterminare bambini e di fare altre tante cose perché la sitcom con Giugno Los Angeles è sorda cadrona. Chiedo asilo. Guarda che è un'idea geniale, Drago. Mi sono arrivate un sacco di mail e mi dicono finalmente un altro giorno di festa oltre al venerdì. No, ma infatti io volevo... Attenzione, martedì. Non vorrei che diventasse un'abitudine quella del Mardi Gras come l'altra volta. No, non è un'abitudine, è proprio una cosa che dobbiamo fare per il bene dei nostri ascoltatori. La scorsa settimana eravamo lì, che facevamo il sonnellino, pisolino, appunto. Chiamalo come vuoi. Ed è da contratto, invece bisogna farlo. Non bisogna farlo. Tu l'hai trasformato in un Mardi Gras e adesso ci è arrivata la multa. Io voglio anche la musica, voglio sentire... Senti come cresce, Ma no, eccoli. Di nuovo! Ah, voilà! Le Mardi Gras! Carità, le Mardi Gras! Una festa mobile, Drago! Una festa del telefono mobile! Festa mobile, cos'è? Hemingway, no? Festa mobile! Le sbronze, Drago! Il rum! Rum pampero! Poron pompero! Però però! Evita! Evita però! Madonna che ha fatto Evita! Lourdes! La Francia! Che è anche la figlia di Madonna! Sì, ma la Francia porta a... Mardi Gras! La Louisiana! Sai che la Louisiana a me fa sempre venire in mente tutta un'altra cosa? Mi fa venire in mente Lucy in the Sky with Diamonds! Ma scusa, Tito, ma cosa c'entrano i Beatles con l'LSD, Drago? No, ma con l'LSD. Cioè, no, cosa c'entrano i Beatles con l'LSD? Lo sappiamo, ma il Mardi Gras con i Beatles e l'LSD no, è un po' tirata per i capelli. No, c'entrano perché Frank Zappa faceva una versione di Lucy in the Sky with Diamonds con le parole cambiate. Diventava Louisiana Hooker with Herpes, che vuol dire la puttana della Louisiana con l'herpes. Louisiana Hooker with Herpes. A proposito di herpes, no, adesso Drago, stare sull'argomento. L'herpes, ma mica quello genitalis, quello simplex del labbro. Okay. C'è una canzone moderna che va tantissimo tra i giovani, sì. Che mi sembra di aver sentito alla radio, tra i giovani. Che parla proprio di herpes. Ma gioco all'herpes, mi viene l'herpes, ma non ho capito bene il testo, ho sentito così vagamente. Venivo qua stamattina all'asilo, ho detto però dovremmo parlarne di questa cosa, non sapevo bene dove andare a delle parlare. Delle malattie, delle... Guarda, ti faccio sentire la canzone, perché non si capisce bene di cosa parla. Senti, sembrano i Red Chili Peppers. Invece non sono i Red Chili Peppers. No, sono i Club Dogo con Giuliano Palma. Giuliano Palma, ex Casino Royale. Certo. Attuale Blue Beatles. Sta facendo qui sul panzerone. Aspetta un attimo, senti bene le parole, perché yeo, lo capiamo, ma dopo... E qui un attimo, perché è l'intro, perché fa minutaggio e pagano la SIAE, capito? Però adesso arriva il testo. Eccolo, ecco, attenzione. Sono lontano dallo stress. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Gioco a PES. Hai capito che è un gioco della PlayStation, del calcio. Ma tu cosa ne sai, Drago? PES. Parla dell'herpes, no? Ma qual è? Ma è un gioco di parole per dire, perché PES è Pro Evolution Soccer, un gioco famosissimo della PlayStation, lo sapevo. Ma in realtà dietro c'è il messaggio di ragazzi: non andate a fare cose promiscue in giro in discoteca, state a casa, fatevi le canne e giocate alla PlayStation. Questo è il messaggio nuovo dei Club Dogo. Non beccate l'herpes. Che poi tra l'altro, voglio dire, sono tutti giovani, no? I Club Dogo. Sì, certo. Giuliano Palma ci avrà 50 anni, forse 60. È giovane per essere uno che... Che tra l'altro potrebbe già essere... No, dai, in pensione sì. Ma cos'è sta roba? Olè. Cos'è? Ma per favore, quest'anno calcio zero, perché calcio lo sai zero. Che mi viene l'urticaria. L'urticaria, guarda che qui il cuore dei tifosi è enorme. Tu non sai cos'è successo. A Buenos Aires c'è un tizio, Walter Rotundo, che ha chiamato le sue due gemelline appena nate Mara e Dona. E allora cos'è? Bellissimo. Una notizia? Ah, poi sono due nomi belli, anche Mara, vieni qui, Dona, vieni qui. Non è che sono strani, cioè, fosse stato un tifoso di Ibrahimovic, magari aveva un po' più di problemi. Beh, una chiamava Ibra. E l'altra... E l'altra, Himovic. Vieni qui, Himovic. Aspetta. acqua, contando. Quanti cuori ci sono? Contali. Tre. Benissimo. Ci sono tre cuori. Quanti rettangoli ci sono? Quattro. Benissimo. Ci sono quattro cuori rettangoli. Quanti rettangoli ci sono? No. Quattro. Oh oh, prova ancora. Quanti quangoli ci sono? Tre. Oh oh, prova ancora. Quanti oh oh ci sono? Uno, due, tre, quattro e cinque. Questa è la risposta esatta. Ci sono cinque. Oh oh. Pieno asilo. Ciao, ma voi avete mai provato a sterminare i vostri bambini? Aspetto le vostre risposte, grazie. Ma cosa stai dicendo? Sto citando quello che è apparso su Facebook qualche giorno fa da parte di una mamma di famiglia cagliaritana che aveva dei problemi con i suoi bambini e quindi ha chiesto dei consigli su internet. Per sterminarli. Per sterminarli. E chi ha risposto? La Franzoni. Qualcuno ha risposto. Erode, sì. Chi altri? E poi anche la polizia, però. Ma come la polizia? Eh sì, sono arrivati a casa sua, hanno, come dire, bloccato la camera, hanno bloccato la casa, tutto intorno, un cordone sanitario. Interrogato la signora sul come mai volesse sterminare proprio. La risposta anche era i bambini. Ma lei voleva sverminare. Sverminare. Il correttore automatico, chi per lui, ha scritto sterminare. Vabbè, ma sterminare. Dai, alla fine sono sempre bambini. Ecco. Io lo sapevo, vedi che fai piangere i bambini con le tue battute. Ma sterminare. No, ma dai, ma volevo dire sterminare i vermi, no? Sverminare vuol dire sterminare i vermi. Poi che siano dentro i bambini o i gatti o dentro Drago. Vabbè, io non ho i vermi. Ma questo lo dici tu. Sono i vermi che hanno me. Mancano 94 giorni alla fine del mondo. Vabbè, che allegria, eh. Qui vabbè, certo, allegria, Drago, è Mardi Gras. È questa l'allegria. Fregatene della fine 94, del però è Mardi Gras. Appunto, va bene, lascia correre. Tanto voglio dire, se tanto devi schiattare, meglio schiattare con un sorriso sulle labbra e pieno di crofisce tuffè, magari, no? Che sarebbe? Com'è che si chiama? Il calamaro? Il calamaro stufato. Chi è adesso il numero privato? Rispondi, perché il numero privato sono sempre quelli più importanti. No, sono sempre menati i numeri privati. Direttori, le cose. Pronto? Chi parla? I'm Julian Assange. No, senti, è Julian Assange. Senti, Julian, te l'ho già detto, non c'è posto qui da noi, lascia perdere. Non chiamare più. No, non ci chiamare più, basta! Madonna, sto qua, chiedo asilo. Noi siamo un asilo e poi poverino. Ma poverino cosa? È lì all'ambasciata equadoregna o equadoriana, come si dice, a Londra. Appunto. Che se ne stesse lì, che si abituasse a stare lì. Si abituasse, ormai i rapporti sono tesi, lì. Non si sopportano più dopo tutti questi mesi. Lui è lì in una stanza, al pian terreno. È sempre a rompere le palle. Lì sul divano. E mandateci i vostri calamari e tuffea, chiedo asilo, e tradio24.it. Disegnati però, non veri, chiusi dentro la scatoletta. Una scatoletta, una sottovuoto, schiscetta. Sì, però. Con l'alluminio. La se invece non è sottovuoto, insomma. E poi pussano, sì. Spussano. Come Tito. Ma sì, no, Tito. Vabbè. È pussolone, Tito. Ma io dico, come è pussolone?